Cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre sulle frequenze di Radio Alma 101.9. In studio da Bruxelles, Annalisa e Maurizio. Ciao Annalisa, ciao Alessandra. Alessandra in collegamento dall'Aia, in Olanda. Io ti sento molto male, spero che tu e voi in studio e gli amici radioascoltatori mi sentite meglio di come io vi sento. Noi ti sentiamo Buonasera a bene. tutti. Ti sentiamo abbastanza bene, Alessandra. Ciao da Bruxelles e un saluto in regia questa sera con noi, Giulio. Ciao Giulio. Ciao Giulio. Dunque, Alessandra, Maurizio, un'altra puntata di Giro di Boa questa sera, un Giro di Boa che continua a seguire l'attualità, restiamo sempre al passo dell'attualità e manteniamo i nostri radioascoltatori aggiornati. Si terranno tra poco le elezioni per il Parlamento europeo e Maurizio Molinari, della redazione di Giro di Boa, ha realizzato due interviste con due candidati appunto italiani che si presenteranno alle prossime elezioni. Quindi elezioni europee, Alessandra, che coinvolgeranno quanti paesi nell'Unione Europea? Sì, esatto, come tu dicevi, le elezioni per il Parlamento europeo che si terranno tra il 4 giugno ed il 7 giugno nei 27 stati dell'Unione europea. Ogni stato ha scelto una data diversa per le elezioni a seconda delle consuetudini proprie della nazione o secondo quanto stabilito dai singoli governi. Ad esempio, come ben i nostri amici radioascoltatori sapranno, in Italia si vota il 6 e il 7 giugno, cioè sabato e domenica, come nel 2004, ma diversamente da quanto accaduto nelle più recenti elezioni. Mentre per esempio invece nel Regno Unito si voterà il 4 giugno, dunque giovedì, come avviene solitamente, cioè dunque un giorno infrasettimanale. Saranno ben 500 milioni di europei chiamati a votare, i loro rappresentanti al Parlamento europeo, che saranno 736. Verranno eletti con un sistema proporzionale e supererà questo sistema le elezioni del 2004, che come ricorderemo sono state le elezioni transnazionali più grandi della storia. Dunque, Annalisa, un grosso evento, come abbiamo visto, numeri spaventosi, 500 milioni di persone e ben 736 membri che saranno eletti. Sì, Alessandra, come dicevo nell'introduzione, Maurizio ha realizzato per noi due interviste con due candidati, ma prima di mandare in onda le interviste ai due candidati, manderemo in onda un'intervista che Maurizio ha realizzato con Dino Sorrentino, il console d'Italia a Bruxelles. Abbiamo intervistato il console per saperne di più circa le modalità di voto per i cittadini italiani residenti in Belgio, per esempio, Dino residenti a Sorrentino. Bruxelles e regolarmente iscritti all'AIRE. Se Giulio dalla regia mi fa cenno che possiamo partire, mandiamo ora in onda l'intervista che Maurizio ha realizzato con Dino Sorrentino, console d'Italia a Bruxelles. Dino Sorrentino, console italiano a Bruxelles, benvenuto su Radio Alma. Buongiorno a voi. Console, ci può spiegare le modalità di voto degli italiani iscritti all'AIRE in Belgio? Certo, in occasione delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, a differenza dell'Italia, dove si vota i giorni 6 e 7 giugno, il voto è leggermente anticipato, quindi si inizierà a votare qui i giorni 5 e 6 di giugno, il giorno 5 venerdì a partire dalle 17 fino alle 22 e il giorno seguente, il 6 di giugno, a partire dalle 8 del mattino fino alle 20 della sera. I seggi che accoglieranno al voto circa, permetterà il voto di circa 46.000 elettori che sono iscritti nella nostra anagrafe consolare, verranno tutti istituiti nel Consolato d'Italia a Bruxelles. Quindi, a differenza dell'ultima tornata elettorale, per le europee di 4 anni fa, i seggi non potranno essere istituiti in giro per la circoscrizione consolare, ma possono, secondo una disposizione che ci è stata data dalle autorità del Belgio, essere fatti solo all'interno delle sedi diplomatiche e consolari. Quindi i nostri iscritti, i nostri elettori verranno a votare qui, nelle loro 17 sezioni. In questi giorni i nostri connazionali stanno per ricevere dal Ministero degli Interni il certificato elettorale in cui si indica il luogo e il numero di sezione presso cui votare. Oltre alle elezioni europee, il 21 giugno ci sarà il referendum. sulla legge elettorale che prevede tre quesiti. Il primo quesito prevede l'assegnazione, se dovessero vincere, sì, se si dovesse raggiungere il quorum, prevede l'assegnazione di un premio di maggioranza al partito di maggioranza relativa alla Camera. Il secondo quesito è analogo per il Senato e il terzo quesito è per l'abolizione delle candidature multiple. Come Questa invece. modalità di voto rispetto alle europee è diversa, ossia questa volta per il referendum si vota per corrispondenza, quindi come similmente a quanto fu fatto invece per le elezioni politiche dell'anno scorso. Il Consolato sta già predisponendo i plichi elettorali e a partire dal 3 giugno i plichi elettorali raggiungeranno i nostri connazionali nelle loro case, dove quindi riceveranno a casa il plico elettorale con le tre schede da votare ed eventualmente riempirle, metterle in una busta e rimandarle indietro al consolato, sempre per posta, quindi è voto per corrispondenza in questo caso per il referendum. Cambiando argomento, il prossimo 2 giugno è la festa della Repubblica. Qual è il significato di questa celebrazione, per gli italiani in Belgio? Ma io direi qual è il significato di tutti gli italiani che sono in giro per il mondo, non solo quelli che sono in Italia. È una festa che è sempre più sentita dai nostri connazionali, è una festa molto sentita nel nostro paese. Io in qualità di console organizzerò sicuramente un ricevimento qui in consolato nel pomeriggio, a partire dalle 4 del pomeriggio, e tutti i connazionali sono cordialmente invitati a partecipare. Faremo insieme alla CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, una sorta di food testing con una distribuzione di prodotti regionali, quindi tutti coloro che vorranno passare qui in consolato a partire dalle 4 di pomeriggio del 2 giugno sono i benvenuti. Queste iniziative di cui lei ci parlava sono un po' l'esempio di come il Consolato vuole essere vicino alla comunità italiana a Bruxelles. Quali altri modi il Consolato utilizza per far sentire la sua presenza nella capitale belga? Ma guardi, noi nei limiti degli strumenti che abbiamo a disposizione cerchiamo appunto di amplificare al massimo quelle che sono le nostre iniziative. Noi siamo stati molto attivi nel corso degli anni anche nella promozione di alcune manifestazioni culturali. Mi viene a mente l'ultima che abbiamo organizzato qui nel Teatro dell'Istituto di Cultura, un omaggio al decennale della morte di Fabrizio De André, uno spettacolo musicale che ha visto una fortissima partecipazione. C'erano anche molti giovani, il che ci ha fatto molto piacere. Quindi, insomma, tutte le manifestazioni appunto di qualità che il Consolato può organizzare, può offrire alla collettività, io credo che questo sia anche un'opportunità che ci dà a stare insieme ai nostri connazionali, a stare vicini ai nostri connazionali e segnalare loro che il consolato è comunque vicino a loro e a loro disposizione. Lei prima parlava degli italiani di tutto il mondo a proposito del 2 giugno, però in Belgio c'è una particolarità, la comunità italiana è la seconda comunità dopo quella marocchina e ci sono sia italiani immigrati negli anni 50 con gli accordi del carbone, sia i giovani, insomma, che vengono qui magari per lavorare per le istituzioni europee, per fare un'esperienza. Come il consolato sfrutta e come, insomma, vive questa peculiarità? Cioè, non credo anche per lei come console, non credo sia lo stesso fare il console a Bruxelles o farlo in un'altra capitale europea. No, ma sicuramente la peculiarità di Bruxelles è appunto questa. Da un lato rappresenta più o meno la fotografia dell'immigrazione italiana che c'è stata a partire dalla fine degli anni 40, gli anni 50. Però su questa c'è anche una diversità rispetto agli altri consolati, dove appunto abbiamo un grosso numero di connazionali che sono diciamo, i figli di questa prima ondata di immigrazione, che si sono perfettamente integrati nel tessuto belga, sono particolarmente attivi appunto nel tessuto belga. Poi c'è diciamo, il grosso numero di funzionari che lavorano presso le istituzioni europee e c'è una sempre più crescente numero di giovani italiani, appunto, che vengono qui, alcuni vengono qui per brevi periodi e poi si trovano bene a Bruxelles e si integrano e restano qui, altri che vengono qui per degli stage o lavorano anche loro per progetti part-time o per brevi periodi o saltuari, sempre nell'ambito delle istituzioni europee. Questo per noi rappresenta un forte stimolo perché diciamo, l'offerta di servizi che il consolato deve offrire diventa un po' più varia rispetto a quella che può essere in altre circoscrizioni consolari, quindi dal classico servizio che può essere fornito ai connazionali dei passaporti, di altre cose come il voto, per esempio, oppure per il voto, ovviamente per questi giovani forse c'è da fare uno sforzo in più per cercare di tenerli vicini alle nostre istituzioni, ma penserei anche ai giovani figli delle prime generazioni o nipoti delle prime generazioni che hanno bisogno di sentirsi italiani, non solo di passaporto o per sentito dire dalle esperienze condivise con i loro genitori o nonni, quindi offrire un'immagine dell'Italia un po' più moderna, far conoscere che l'Italia è altro rispetto a quello che era nel passato, che l'Italia è un paese moderno, un paese che si lancia verso la modernità. Io la ringrazio molto per la sua disponibilità. Certo, ringrazio voi, ne approfitto ancora una volta per ricordare appunto che i certificati del Ministero dell'Interno stanno arrivando ai nostri connazionali, dovrebbero arrivare ai nostri connazionali in queste ore. Per chi non dovesse riceverlo... Chi non dovesse ricevere, da partire dalla mattina del 3 giugno, che si mettono in contatto con noi in consolato e verificheremo se... se la persona è nell'elenco degli elettori o se non c'è, appunto analizzare la sua situazione elettorale per chiedere un eventuale nulla osta al comune. Quindi un po' di pazienza, i certificati mi dicono che stanno per partire dal Ministero degli Interni, quindi entro la fine di questa settimana, gli inizi della prossima, dovrebbero essere già presso i nostri elettori. Quindi ricordarsi che qui si vota il 5 e il 6 giugno negli orari che ho già indicato prima. E ricordiamo quindi il venerdì a partire dalle 5 alle 10 e il sabato tutta la giornata dalle 8 del mattino alle 8 di sera. Ricordarsi quindi che si vota qui in consolato, nelle sezioni istituite qui in consolato, venire qui con un documento di identità, anche belga va bene, ma soprattutto venire qui con il certificato che vi è stato mandato dal Ministero degli Interni. Senza certificato, purtroppo, il Presidente del Seggio non vi potrà ammettere al voto, quindi è importante ricordare di avere un documento di identità e di avere un certificato. Grazie Maurizio. Maurizio Molinari ha intervistato Dino Sorrentino, console d'Italia a Gianni Bruxelles. Il capo delegato. Ricordiamo che il 2 giugno prossimo si celebrerà la festa della Repubblica e appunto il console d'Italia Dino Sorrentino invita la collettività italiana qui a Bruxelles ad un ricevimento appunto aperto a tutti in consolato il 2 giugno a partire dalle ore 4 del pomeriggio. Come accennavo nell'introduzione, Maurizio ha realizzato per noi, per Giro di Boa, due interviste con due candidati italiani alle prossime elezioni per il Parlamento europeo. E possiamo mandare in onda la prima intervista. La prima intervista è stata realizzata con Gianni Pittella, capo delegazione del Partito Democratico nel Partito Socialista Europeo e candidato numero 3 nella lista Sud. Gianni Pittella è capo delegazione del PD nel Partito Socialista Europeo e candidato numero 3 nella lista del Partito Democratico al Sud. Onorevole Pittella, ci spiega i punti principali del programma del Partito Democratico e quali sono in particolare i punti di rottura rispetto ai programmi degli altri gruppi europei come in particolare il PPE? Guardi, io le posso dire che innanzitutto noi vogliamo un'Europa più reattiva rispetto alla crisi che stiamo attraversando, perché la crisi che stiamo attraversando non è una barzelletta o uno scherzo, è purtroppo una crisi vera che tocca le famiglie, che tocca i singoli cittadini. Ci sono famiglie che non riescono a pagare le bollette elettriche e le bollette telefoniche, ci sono cooperative in piccole e medie imprese che chiudono, la crisi è un fenomeno purtroppo reale. Ed è necessaria una risposta europea. Io credo che noi del Partito Democratico ci impegneremo per un piano europeo di rilancio della crescita economica attraverso il finanziamento delle grandi reti infrastrutturali, attraverso il finanziamento di un grande programma per la ricerca, la formazione e l'istruzione, un grande programma per l'energia da fonti rinnovabili, l'estensione dell'Erasmus a tutti i giovani dai 16 ai 35 anni e la banda larga europea. 5 punti di un grande programma che possa far uscire l'Europa dalla crisi, rilanciare i consumi e l'economia europea. Finanziabile questo programma attraverso il lancio degli Eurobond, così come in ogni nazione ci è successo, ci sono i titoli di Stato, come in Italia i BOT, così sulla moneta europea si possono lanciare dei titoli di debito da parte della Banca Europea degli Investimenti per racimolare 1.000 miliardi di euro, tali da una dote finanziaria talmente alta che può consentire il finanziamento di questo piano europeo per la crescita. Quali le differenze e quali le convergenze rispetto che lei vede rispetto agli altri gruppi europei? Sulla crisi intanto non c'è una parola chiara rispetto a questa esigenza che noi abbiamo e noi sottolineiamo di risposta europea. Barroso finora ha fatto il solletico alla crisi, ha dato l'aspirina, ma la malattia è grave, richiede una terapia d'urto. E poi c'è tutto il tema dell'Europa politica e dell'Europa sociale, perché noi spingiamo affinché vi sia un rafforzamento sostanziale dell'Europa politica, che significa che l'Europa faccia la politica estera, faccia la politica di difesa e di sicurezza, faccia il governo dei flussi migratori, sia rappresentata nel mondo dal ministro degli esteri dell'Unione Europea, governi diciamo questa grande questione che è l'immigrazione nei nostri paesi, dalle sponde sud del Mediterraneo. Insomma, noi vogliamo un soggetto politico europeo che continui e rafforzi la integrazione non soltanto dei popoli ma anche delle politiche, quindi politiche comuni che siano quelle che abbiamo appena elencato, ma anche comuni sulla ricerca, sull'energia. E tutto questo noi dello schieramento riformista, del Partito Democratico e dei Socialisti Europei lo abbiamo scritto nel nostro programma, lo porteremo avanti con grande determinazione. Io non so, anzi sono certo che la stessa determinazione non c'è da parte dei nostri principali avversari politici, che sono i popolari, che in Italia sono rappresentati da Berlusconi. Berlusconi ha avuto anche la sfrontatezza di candidarsi capolista in tutti i collegi elettorali pur sapendo di essere ineleggibile e quindi non poter mettere nemmeno il piede a Strasburgo e a Bruxelles, e finora non ha detto una sola parola sui temi europei. Le cose di cui io e lei stiamo discutendo in questo momento le discutiamo io e lei, ne discutono i candidati del PD, ne discute Massimo D'Alema o Dario Franceschini, Bersani o Letta, ma non c'è una sola parola, e sembra muto Berlusconi, non c'è una sola parola, eppure lui è il capo di un partito che si presenta alle europee e ha avuto anche il coraggio di candidarsi pur sapendo di essere ineleggibile. Per quanto riguarda l'immigrazione, anche Frattini chiedeva un maggior coinvolgimento dell'Europa, quindi può vedere un lavoro insomma comune sia a livello italiano che a livello europeo fra PPE, Partito Socialista Europeo in Europa, e fra PDL e PD in Italia riguardo l'immigrazione? Io me lo auguro, però fin quando prevale la linea dello sceriffo Maroni, che respinge le persone invece di accoglierle, fin quando non c'è un'azione seria per distinguere il delinquente dalla maggioranza degli extracomunitari che vengono da noi, o perché hanno bisogno dell'asilo politico o perché vogliono offrire il loro lavoro in forma seria, in modo serio, insomma. Quindi si chiariscono un po', insomma. Frattini avrebbe potuto rimanere a fare il commissario europeo e dedicarsi alle politiche dell'immigrazione, delle libertà pubbliche, e invece non ha esitato un attimo, non ci ha pensato due volte, è tornato in Italia. Non mi sembra giusto. Se veramente avesse avuto la voglia di dare una mano a risolvere questa questione, avrebbe potuto rimanere lì in quel posto. E comunque, se mettono da parte queste azioni scellerate del ministro leghista, se non offendono la storia di un paese che è amato nel mondo per la sua apertura, per la sua accoglienza come l'Italia, se mettono da parte questo armamentario, che poi è un armamentario soltanto elettoralistico, è chiaro che se convergono sull'idea di potenziare, diciamo, in forma programmata l'arrivo di immigrati e combattere come noi vogliamo combattere l'immigrazione irregolare, va bene. Tornando alle elezioni europee, la campagna elettorale dovrebbe servire a spiegare agli italiani cos'è l'Europa, quali sono i principali vantaggi dell'Unione Europea per l'Italia e per gli italiani? Ma innanzitutto l'esistenza dell'Unione Europea è un grande vantaggio, perché ci sono politiche che non possono essere fatte soltanto dagli Stati nazionali. Il principale vantaggio è questo, è che gli Stati nazionali non ce la fanno a gestire appunto l'immigrazione, ad esempio, e c'è bisogno di uno Stato sovranazionale, di una Unione sovranazionale. Ci sono altre politiche, il mercato interno, la concorrenza, viene, diciamo, regolata da una unione sovranazionale, e poi ci sono anche opportunità finanziarie, tutti i fondi strutturali che l'Unione Europea dà alle regioni italiane, soprattutto nel sud, ma anche nelle altre regioni d'Italia, e gli altri strumenti, dagli Erasmus per i giovani a tutti i programmi a sportello Bruxelles, il LIFE, la ricerca, l'innovazione tecnologica, insomma l'Europa è amica. Ma allora perché in Italia la campagna elettorale si concentra così tanto su diatribe interne piuttosto che parlare di argomenti europei? Perché l'Italia sta soffrendo una crisi della politica negli ultimi anni terribile, siamo alla pattumiera, diciamo, della politica. Ma non siete anche un po' voi responsabili, voi politici, anche i media che parlano poco di Europa? No, ma guardi, forse può dire che sono responsabili i media sicuramente, e una parte di politici che non parlano di Europa, ma non faccia generalizzazioni per cortesia, perché noi facciamo una campagna elettorale, io faccio una campagna elettorale, noi del PD facciamo una campagna elettorale dalla mattina alla sera parlando di Europa, punto. I candidati alle elezioni europee, i futuri europarlamentari, dovranno conciliare le attività a Strasburgo e Bruxelles, nelle plenarie e nella commissione, con l'attività nel loro territorio, nel territorio di elezione. Questo è un punto caldo, perché dalle cifre del Parlamento europeo risulta che gli eurodeputati italiani siano fra i più assenteisti. Come poter conciliare queste due necessità, che sono entrambe legittime, e come poter ridurre l'assenteismo degli eurodeputati? Ma guardi, innanzitutto lei faccia, pubblicizzi un po' il sito del Parlamento europeo e chieda che si vada a vedere chi è stato assente e chi è stato presente, perché non si può dire anche qui che la deputazione italiana è stata una deputazione di assenteisti. Si vada a vedere chi è stato assente, e chi è stato assente non lo si voti, e chi è stato presente con una media che va al di sopra anche degli 80%, si venga premiato, primo. Secondo, si può benissimo conciliare la doppia esigenza, partendo il lunedì mattina, come faccio io da 10 anni, e tornando il giovedì, e il venerdì, il sabato e la domenica dedicandola al collegio elettorale, mantenendo i rapporti tramite l'email, Facebook, il sito, il blog, tutti gli strumenti le tecnologie più avanzate, che mi hanno consentito per esempio in questi anni di spedire una newsletter a 20.000 iscritti parlando di Europa, dei programmi, dei bandi ogni 15 giorni, e di rispondere a chiunque mi abbia scritto, mi abbia posto problemi, domande, ricerche di documentazione. Si può fare, ci sono quelli che l'hanno fatto come me, quindi si può fare. Io non sono un eroe né una persona super dotata, sono una persona normale. Se l'ho fatto io, lo possono fare anche gli altri. La scommessa del futuro dell'Unione Europea, la scommessa per il futuro, sono i giovani. Quali le possibilità che l'Unione Europea, in sintesi, offre ai giovani studenti e lavoratori autonomi e dipendenti per essere più competitivi? Lei parlava prima di Erasmus, per esempio. Sì, oltre all'Erasmus lo abbiamo esteso ai ragazzi dai 16 ai 18 anni, ai giovani imprenditori e ai giovani della pubblica amministrazione. E poi abbiamo adesso l'idea di lanciare un Erasmus universale, cioè un programma Erasmus che consenta scambi di esperienze a tutti i giovani dai 16 ai 35 anni. E poi non dimentichiamo il Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo è uno strumento formidabile che finanzia formazione e aiuti all'occupazione e che dovrebbe essere utilizzato per migliorare la qualità, le conoscenze, la competenza e le capacità professionali dei nostri ragazzi. Tre aggettivi per definire le specificità del Parlamento europeo rispetto ai parlamenti nazionali? Autorevole, perché rappresenta 500 milioni di cittadini di varia provenienza nazionale, in un misto di culture, di pensieri. È un Parlamento più sobrio, dove regna una cooperazione più serena tra i deputati e anche le componenti politiche del proprio seno. È un Parlamento meno potente, diciamo, perché se non si attua il Trattato di Lisbona non abbiamo la codecisione in tutte le materie, su tutte le materie con il Consiglio europeo. Le sfide più importanti che l'Unione Europea si dovrà affrontare nella prossima legislatura? La riforma della politica agricola comune, della riforma della politica di coesione, l'attuazione del trattato, l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la ripresa economica, il rilancio della crescita e un'agenda sociale che metta al primo piano le cittadine e i cittadini, la gente. Noi dobbiamo essere sempre di più l'Europa dei cittadini. Ultimissima domanda, cosa vuole dire agli euroscettici che ancora non sono sicuri o sono convinti di non andare a votare il 6-7 giugno? Il non voto è sempre una risposta pessima, anzi una risposta inutile, perché chi non vota si priva di un diritto e di uno strumento per di scelta e di concorso ad una scelta. Non votare è una, se mi consente, una scemenza. Questo era Gianni Pittella, capo delegazione del Partito Democratico nel Partito Socialista Europeo e candidato numero 3 nella lista Sud per il Partito Democratico, intervistato da Maurizio Molinari. Alessandra, credo che tu volessi fare una precisazione. Sì, esatto. Come giustamente Pittella diceva, sono 375 milioni di concittadini europei che andranno a votare, 500 invece sono i milioni di europei che saranno rappresentati dal nuovo Parlamento europeo, che avrà 736 membri. Io prima credo che mi sono un po' ingarbugliata con i numeri, per cui ecco, ci tenevo a fare la precisazione che i votanti saranno 375 milioni e non 500. Grazie Annalisa. Grazie Alessandra. Mandiamo ora in onda la seconda intervista che Maurizio ha realizzato. Seconda intervista realizzata con Nello Musumeci, candidato per la lista Le Autonomie per la destra. Onorevole Musumeci, quali i punti fondamentali del programma della destra e della lista delle autonomie per queste elezioni europee? Intanto ridare dignità ad un concetto d'Europa che appare molto vago e molto astratto. L'Europa che finora abbiamo conosciuto non è l'Europa che abbiamo sognato, basta guardare le medie delle percentuali dei votanti nei paesi europei per rendersi conto come l'interesse sia assolutamente basso, bassissimo. Forse l'Italia detiene il tasso più alto. Questa Europa è ancora quella che porta con sé il vizio d'origine, quello del mercato comune, quindi interessi legati essenzialmente al profitto, alle lobby, ma non l'idea di Europa, non il patrimonio valoriale che dovrebbe appassionare la gente, entusiasmare i giovani, esaltare i popoli. Quindi la destra e la lista L'Autonomia si prefigge di dare una essenza politica ad un'Europa che invece è condizionata dall'essenza economica e vuole che siano tutelate le identità locali, quelle regionali, quelle periferiche, perché sappiamo benissimo che ormai il conflitto sulla unità degli stati nazionali non è determinato dalla difesa delle identità locali, ma dalla globalizzazione galoppante, dal villaggio globale. Quindi abbiamo il dovere di esaltare la diversità che poi costituisce all'interno del continente la forza sulla quale si costruisce l'Unione Europea. La matrice cristiana di questo continente, che appare sempre più annacquata sotto i colpi di piccone di un laicismo dissacrante e disarmante, noi vogliamo che l'Europa sia tollerante di tutte le religioni, ma non deve rinunciare alla propria. Questo mi sembra assolutamente naturale, fisiologico e legittimo. Vorremmo un'Europa che fosse più vicina alle piccole e alle medie imprese, capace di tutelare le specificità tipiche dell'agroalimentare, della pesca, per fare qualche esempio. Insomma, un'Europa più Europa, un'Europa capace di rappresentare un'idea, piuttosto che un recinto all'interno del quale la legge del ricavo, del profitto, del lucro sembra essere l'unica predominante. Qualora lei venga eletto, quali sono i punti che differenziano il vostro programma in concreto rispetto ai programmi degli altri gruppi che rappresenteranno i cittadini al Parlamento europeo? Innanzitutto l'autonomia, come lei stesso ha letto dalla denominazione del nostro simbolo. La nostra non è una denominazione occasionale. Noi riteniamo che l'autonomia sia un valore morale, inteso come indipendenza da ogni lobby, da ogni potere occulto o palese, da ogni centrale finanziaria innanzitutto. E poi l'autonomia delle specificità, l'autonomia dei territori, il diritto alla coesione vera fra regioni povere e regioni ricche. L'Europa doveva essere policentrica nel suo sviluppo, mi pare che lo sviluppo si sia concentrato soltanto nel cuore del continente. Un'Europa più giusta, a cominciare dalla politica della pesca, è assurdo imporre norme pesanti, inique, proibitive alle flotte del Mediterraneo, caratterizzate essenzialmente da una piccola pesca artigianale o da pesca costiera, e poi consentire che nel Mediterraneo le flotte del Giappone possano fare quello che vogliono. Insomma, noi ci differenziamo rispetto agli altri gruppi politici perché vogliamo un'Europa che non sia distratta, latitante su tanti temi, non ultimo quello della immigrazione, ma un'Europa che sappia farsi carico delle proprie responsabilità. Lei parlava appunto di immigrazione. C'è bisogno, secondo voi, di una politica di immigrazione europea, e potete trovare, in caso lei venga eletto, pensa di poter trovare delle convergenze per esempio col PPE o con altri gruppi? Ma credo che l'Europa finora una politica della immigrazione non se la sia data. Basta guardare le differenti posizioni dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e non solo quelli. Basta guardare quello che accade sulle coste siciliane, calabre e del sud Italia. Migliaia e migliaia di disperati alla ricerca di un approdo, nella illusione di cambiare vita, e poi invece diventano manovalanza della criminalità quando non vengono rimandati indietro secondo le leggi italiane, in verità molto lacunose in questo senso, perché il fenomeno migratorio va bloccato sul nascere, e siccome la gente, un accordo con i paesi del Nord Africa e un rinvigorimento della politica di cooperazione. Non serve bloccare le carrette lungo le rotte del canale di Sicilia, assolutamente, è un atto disumano e inconcepibile, ma è altrettanto disumano e inconcepibile, dietro un falso buonismo, dietro una ipocrisia che andrebbe bene soltanto per il paese dei balocchi, consentire che la gente possa impunemente entrare in Italia e poi invece andarsi a prostituire o vivere nei tuguri, vivere nelle stalle, o lavorare 18 ore al giorno per 10 euro. Tornando a parlare d'Europa, la campagna elettorale dovrebbe servire a spiegare un po' agli italiani che vantaggi hanno con l'Europa. Secondo lei qual è il... c'è bisogno di più Europa, e qual è il vantaggio che l'Unione Europea può portare all'italiano? Come sempre, quando si entra in una società bisogna rinunciare a qualcosa per ottenerne qualche altra. È inevitabile. Il nostro ingresso in Europa avrà comportato alcuni limiti, alcuni sacrifici, alcune rinunce, ma indubbiamente ha comportato anche alcuni vantaggi. Noi abbiamo bisogno di utilizzare appieno le opportunità che l'Unione Europea mette a disposizione delle regioni del Mezzogiorno d'Italia in particolare, e invece questo non è accaduto. La Sicilia ha speso, ricevuto e speso tanto denaro, ma non lo ha speso in progetti di qualità, quindi non si è creato alcun polo di sviluppo. Noi dobbiamo cogliere le opportunità economiche che l'Europa ci mette a disposizione, ma al tempo stesso dobbiamo lavorare perché si diventi parte integrante di questo continente e non invece periferia estranea e avulsa da ogni processo di crescita e di sviluppo. Senta, voi avete paura dell'appello al voto utile, visto lo sbarramento, vista la nuova riforma elettorale voluta dai due grandi partiti in Italia? Assolutamente no, assolutamente no. Gli italiani sono contrari a consegnare il paese nelle mani di Berlusconi, Fini, Beltroni o Franceschini. Hanno aperto gli occhi e sanno che in Italia va bene sciogliere o impedire ai partiti piccoli di fare politica, sono d'accordo, ma il partito piccolo è quello che prende 100.000 voti, 200.000 voti, lo 0,5, l'1%, noi siamo una forza politica del 2,5%, rappresentiamo la destra, quindi la cultura politica che per 150 anni ha scritto la storia d'Italia. Mi sembra davvero ingiustificato avere paura. Al Parlamento europeo non c'è nessun governo da appoggiare. Al Parlamento europeo non c'è nessuna maggioranza da garantire sul piano della stabilità, quindi che senso ha questa legge di sbarramento se non quella di mettere in pregiudizio il valore della democrazia che si fonda sul pluralismo e sul confronto delle culture, anche di quelle più diverse, a cominciare dalla sinistra radicale fino alla destra identitaria. Ma perché in Italia la campagna elettorale per le europee sembra sempre una campagna elettorale per delle politiche, con più riferimenti a questioni interne che non a questioni appunto riguardanti l'Unione Europea? È anche colpa di voi politici, è colpa dei media, di chi è un po' la responsabilità? È un vizio tutto italiano questo. La vera verità è che si parla poco dell'Europa e si preferisce l'argomento che può suscitare maggiore interesse, ma se si continua a parlare di veline, di papi, di collane, di regali, di donne in politica più o meno leggere, e la donna in politica invece è una grande risorsa se la guardiamo soprattutto nella sua intelligenza, ma questo non fa notizia e quindi nessuno ne parla. Dico, invece di occuparci di queste sciocchezze da cronaca rosa, noi dovremmo parlare dell'Europa così com'è e così come la vorremmo. Un altro vizietto degli italiani sembra essere l'assenteismo. Dalle cifre sul sito del Parlamento europeo sembra che gli eurodeputati italiani siano fra i più assenteisti. Certo, bisogna conciliare un po' l'attività nel collegio elettorale con l'attività nelle commissioni e nelle plenarie di Bruxelles e Strasburgo, ma insomma non può essere questa una giustificazione per mancare poi al proprio compito, che se eletti è quello di fare gli europarlamentari. Certo, l'europarlamentare si fa, e non si fa soltanto in aula, si fa anche sul territorio, con i convegni, con gli interventi, stando accanto alla gente, andando nelle scuole a parlare di Europa, facendo nottate, muovendosi da una parte all'altra del collegio. Io ho conosciuto colleghi che non hanno mai fatto un giorno di assenza in Europa e sono stati, al momento della riconferma, puntualmente trombati e mandati a casa con i soli voti del condominio in cui abitavano. È importante stare in Europa, è importante votare nelle grandi occasioni soprattutto, ma anche organizzando all'interno del gruppo in maniera tale che comunque la volontà politica di quel gruppo politico, di quella parte, possa essere costantemente rappresentata. Al di là dell'assenteismo, l'altra faccia dell'assenteismo è invece il collega che, non avendo interessi sul territorio nazionale, preferisce stare da lunedì a sabato al Parlamento, e lei sa che il Parlamento non sempre presume impegni di riunione, di gruppo o di commissione o peggio ancora d'aula. Tre aggettivi per definire il Parlamento europeo rispetto ai parlamenti nazionali: trasgressivo, solidale e anche confusionario. Quali sono le sfide, secondo lei, più importanti che l'Europa si troverà ad affrontare nei prossimi 5 anni? Innanzitutto la capacità di riuscire a determinare la coesione economica e sociale, tenuto conto del grave problema che si chiama Mediterraneo, il conflitto sul col Medio Oriente, nel Medio Oriente, quindi una politica estera che possa essere definitiva e risolutiva per alcuni conflitti che mettono in seria difficoltà i processi di crescita della stessa Europa, a cominciare appunto dal bacino euro-afro-asiatico, i rapporti con la Turchia e la capacità di recuperare la propria identità, che deve necessariamente essere senza vergogne e senza colpevoli omissioni, deve essere riconsacrata quella che è stata cristiana, ellenica e romana. I giovani sono un po' la scommessa del futuro dell'Unione Europea. Cosa può e cosa deve fare l'Unione Europea per i giovani? Lavoratori, studenti, lavoratori autonomi, dipendenti? A parte le opportunità di crescita e di formazione che comunque hanno offerto in questi anni in verità ai giovani concrete possibilità di formarsi, di comunicare fra di loro, di scambiare esperienze diverse, però l'Europa non riuscirà mai a suscitare entusiasmo nei giovani se non diventa una idea, se non diventa un valore, se non diventa un obiettivo, magari difficile da raggiungere, ma i giovani hanno bisogno di obiettivi per sapere in funzione dei quali debbono lavorare, debbono impegnarsi, debbono credere, debbono entusiasmarsi, debbono arrabbiarsi, debbono piangere, debbono gioire. Ultima domanda, cosa direbbe a un euroscettico per convincerlo ad andare a votare il 6-7 giugno? Che soltanto chi fa il disertore contribuisce a rendere lontana l'idea dell'Europa che vogliamo. Se si va a votare, si lavora e si diventa corresponsabile di un processo che sarà certamente lento, ma che deve diventare inesorabile, perché ai nostri figli noi dobbiamo essere in condizione di costruire una grande, per i nostri figli, una grande patria europea nella quale si confrontano ogni giorno culture, etnie, civiltà, religioni diverse, perché è questo pluralismo e questa eterogeneità la forza straordinaria del continente europeo. E noi in Sicilia siamo il fronte, il pontile esposto verso culture e civiltà diverse e sappiamo come poterli fare convivere assieme. Questo deve essere capace di farlo anche l'Europa, ma l'Europa della politica, non l'Europa dell'economia. Avete ascoltato un'intervista realizzata da Maurizio Molinari a Nello Musumeci, candidato per la destra nella lista Le Autonomie alle prossime elezioni per il Parlamento europeo. Grazie Maurizio. Ti passo la parola. Ciao Annalisa, ciao Alessandra e salutiamo, se è in collegamento, anche Carlotta Besozzi, che è la presidentessa dello European Disability Forum, una organizzazione che rappresenta diverse associazioni di disabili a livello europeo, che riunisce diverse associazioni di disabili a livello europeo. Non so se Carlotta ci sente. Sì, sì, sono qua, buonasera. Ci scusiamo per averla fatta attendere e lo European Disability Forum sta conducendo una campagna per sensibilizzare la cittadinanza europea riguardo l'importanza del voto dei disabili, delle persone con disabilità. È stato prodotto anche un video chiamato Disability Votes Count, prodotto proprio dallo European Disability Forum. Carlotta Besozzi, ci spiega il messaggio che volete trasmettere attraverso questo video, attraverso la vostra campagna? Sì, senz'altro. Vogliamo prima di tutto trasmettere un messaggio che il voto delle persone con disabilità è importante. Ci sono appunto, secondo appunto le ultime statistiche a livello europeo, si contano 65 milioni di persone con disabilità in Europa e purtroppo appunto queste persone non sembrano contare tantissimo nelle politiche europee, eppure l'Europa adotta tantissime leggi e politiche che hanno un impatto importante sulle persone con disabilità. D'altro lato anche anche se il diritto di voto è un diritto per tutti, non è un diritto che in pratica è ancora attuato in tutti i paesi o per tutti i gruppi di persone con disabilità in maniera omogenea. Per esempio, in in alcuni paesi esiste un voto elettronico che non permette, per esempio, alle persone non vedenti di votare direttamente, ma lo devono fare attraverso l'intermediario di un'assistenza. In alcuni paesi gli uffici, i seggi elettorali non sono sempre accessibili, oppure esistono anche addirittura leggi in alcuni paesi che non permettono alle persone, per esempio, con disabilità intellettiva di votare facilmente. Per esempio devono passare a volte degli esami, rispondere a delle domande che l'elettore medio non è assolutamente in grado di rispondere, o cose di questo genere. Crede che la situazione sia in miglioramento in diversi paesi europei in generale, diciamo? Non ho sentito. Che la situazione sia in miglioramento in generale nei paesi europei? Sì, la situazione è sicuramente in miglioramento, perché appunto diversi paesi stanno appunto adottando alcune norme precise per permettere, per esempio, che ci sia un certo numero di posti, appunto, per cui votare, che siano adattati, per esempio, a persone che usano una sedia a rotelle, per esempio. Le informazioni, c'è anche uno sforzo per rendere le informazioni di voto accessibili, ma soprattutto anche da questo livello c'è molto da fare, perché molti dei dibattiti elettorali, per esempio, non sono né sottotitolati né interpretati in linguaggio dei segni, se sono appunto televisivi o pubblici. Molto spesso appunto le informazioni precedenti al voto non sono sempre accessibili, anche quegli siti non sono accessibili per tutti. Carlotta, sono Alessandra. Volevo sapere come si pongono i candidati alle elezioni europee, che voi probabilmente avete contattato, di fronte alla vostra campagna, dunque ad una campagna che prevede i diversamente abili come diciamo nocciolo della questione. C'è una diversa sensibilità rispetto ai 27 stati, cioè ci sono alcuni candidati che provengono magari da alcuni stati che sono più sensibili rispetto ad altri, oppure si può dire che c'è un comportamento uniforme? Sì, dunque, noi intanto la nostra campagna è una campagna abbastanza decentralizzata, quindi i nostri associati sono stati anche loro abbastanza attivi nei vari paesi per organizzare, per esempio, degli incontri. A livello europeo invece abbiamo ovviamente un sito che si chiama disability.votescount.eu, e dove abbiamo diffuso il nostro manifesto in varie lingue e le informazioni sui vari paesi. E abbiamo chiesto anche ai partiti politici a livello europeo di rispondere a delle domande precise. E da quello che appunto abbiamo visto in alcuni paesi, appunto, ci sono stati dibattiti con le associazioni e c'è stata una risposta abbastanza positiva dalle varie forze politiche, e in alcuni paesi ci sono anche alcuni candidati con disabilità, che è una buona notizia, alcuni sembra in posizione sulle liste per essere eletti. E a livello, l'unica cosa che vediamo è che la campagna è cominciata per le elezioni europee, è cominciata tardissimo, e nei paesi in cui ci sono altre elezioni nazionali o locali si sente pochissimo parlare dei contenuti dei programmi dei partiti sulle questioni europee, quindi è difficilissimo anche in questo poter avere un'immagine di che cosa vogliono anche rispetto alle questioni della disabilità. Quali sono i paesi più sensibili, quelli del sud, del nord, i vecchi paesi membri dell'Unione Europea, i nuovi stati che hanno aderito recentemente? Ma in generale c'è un interesse abbastanza positivo. Il problema è che spesso il riscontro è sì, sicuramente, però in pratica poi Però bisogna vedere, le situazioni sono comunque diversissime, perché per esempio nei paesi del, in molti, non in tutti, in alcuni paesi dell'est ci sono delle, c'è un buon livello di accessibilità, ma sono pochi. In altri sono le persone con disabilità vivono veramente delle situazioni abbastanza drammatiche, sono abbastanza isolate. E poi ci sono alcuni paesi che hanno fatto tantissimo per l'accessibilità, per esempio, e che sono magari più indietro rispetto all'integrazione, per esempio, scolastica, che invece è una cosa che è molto avanzata in Italia, ad esempio. Quindi ci sono delle discrepanze molto importanti. Livello europeo comunque è importante dire che ci sono state diverse leggi che hanno avuto un impatto sulle persone disabili, per esempio le leggi sulla non discriminazione, soprattutto all'accesso al lavoro, alla formazione, che adesso sono state recepite nell'ordinamento di tutti i paesi, che prevedono per esempio che un datore di lavoro debba prevedere degli adattamenti dell'orario, del posto di lavoro anche durante le interviste, e poi nei trasporti stanno facendo grossi passi avanti, anche perché c'è una politica comune dei trasporti e quindi c'è già stato un regolamento per i diritti delle persone disabili per viaggiare in aereo, che è già entrato in vigore, che prevede delle norme di assistenza e che prevede anche che non si neghi più come in passato l'accesso a bordo per le persone disabili, capitava, e si stanno decidendo anche alcune legislazioni per il trasporto sul bus e per via marittima. Un'ultimissima quindi il Parlamento può fare tantissimo. Un'ultimissima domanda, si sente di fare un appello agli elettori disabili per andare a votare? Cosa si sente di dire agli elettori disabili? Beh, quello che vorrei dire è che appunto è importante, perché ci sono, si può fare molto a livello europeo, e d'altro lato bisogna ricordare che il voto delle persone disabili e anche delle loro famiglie è importantissimo e che conta. Grazie mille a Carlotta Besozzi, presidentessa dello European Disability Forum. Ricordiamo rapidamente il sito, che è www.edf-feph.org. È un sito in inglese e in francese, ma penso che molti degli ascoltatori di Radio Alma potranno comunque usufruirne. Annalisa, a te la parola. Anche io vorrei ringraziare Carlotta per essere intervenuta a Giro di Boa, e vorrei ricordare ai nostri radioascoltatori che possono riascoltare le interviste che Maurizio ha realizzato per noi sul nostro sito in podcast www.radioalma.blogspot.com. Potrete appunto riascoltare l'intervista al console d'Italia Bruxelles Dino Sorrentino, l'intervista a Gianni Pittella, candidato nella lista Sud per il Partito Democratico per le prossime elezioni per il Parlamento Europeo, e l'intervista a Nello Musumeci, candidato nella lista Le Autonomie per la destra, appunto, per le elezioni del Parlamento Europeo. In chiusura vorrei fare un ultimo annuncio: la compagnia teatrale La Bottega Magica presenterà lo spettacolo Carosello d'Amore il prossimo 26 e 27 giugno alle ore 20 all'Espace Senghor qui a Bruxelles, per la regia di Vito Laraspata. Le prenotazioni possono essere effettuate al seguente numero 0475897812, oppure inviando un'email al seguente indirizzo bottega2002 @hotmail.com. Siamo in chiusura, dunque un saluto ad Alessandra in collegamento da Laia. Sì, buonasera Annalisa, un saluto a tutti gli amici radioascoltatori e ovviamente un ringraziamento ancora a Carlotta Besozzi per essere intervenuta, e le auguriamo buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi. Grazie ancora. Un saluto a Maurizio, grazie a Maurizio per i contributi che hai realizzato per questa puntata di Giro di Boa, e come sempre grazie a Giulio in regia per il supporto. A risentirci alla settimana prossima.